e la chiamano estate, questa estate senza te. Ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui, vicina a me? E le chiamano notti, queste notti senza te. Ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Ma gli altri vivono, parlano, amano, e la chiamano estate, questa estate senza te. Profumo del mare non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui, vicina a me? E le chiamano notti, queste notti senza te. Ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Ma gli altri vivono, parlano, amano, e la chiamano estate, questa estate senza te.